Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Adesso va bene, tu controlla sempre se frequentimento scalda, se non scalda il frequentimento è a posto. No, non scalda il frequentimento, è sotto corso. 12,61. 12,62. Io l'ho messo 13,8, quindi figurati, è perfetto. I finali sono tiepidi, sia l'integrato aureo che i due modulatori. È perfetto adesso. Il frequentimento non si muove per niente, non si spegne, è nuda. Cazzo, un alimentatore di merda, un alimentatore. La decorazione che è stata fatta evidentemente, guarda, come lo vedete, Massimiliano l'ha aumentato a 14 qualche cosa per avere la tensione di 13 volt una volta che lo metti in trasmissione, capito? Infatti lui la stava usando così, non se ne è mai accorto perché la usa poco, capito quel problema. Sì, ma lo vuoi un consiglio? Metti la 13,5. Prendo 13,8 è troppo, la mia è stata fatta con la sonda, 13,5, la tensione giusta per quella radio è 13,5 ancora. Sì, vabbè, guarda a me, 13,8, giusto, va bene, perché quando parlo scende a 12, 12 è oscillante, 12,60, 12,35, va bene. Ce l'ho acceso la stamattina, me. Non si è mai spento nulla, no, diceva benissimo. Guarda, stamattina, più di prima di mezzogiorno, l'ho fatto. È un buon boy, è preciso. Capito? Ho usato quel voltaggio lì anche perché la tensione del 70 è intorno ai 13, capito? Nell'alimentatore che ho io con lo switching, perché se lo metto scendo a 12 si spegne il display, te lo sai. Quindi già va bene così la tensione. Non succede nulla, non si sta muovendo, 27,075, non si spegne manco il frequentimetro. È di lusso, eh. Se no questa mi aveva già fatto difetto. Anche l'alimentatore ha visto le scaldare bene. Sì, ma è così. Era troppo alta la tensione, da lì il difetto, capite? Era troppo alta la tensione. Va bene. Sì, me l'ha già detto Massimiliano, che lo chiamo al telefono stamattina. Va bene. Ok. Ci sentiamo dopo, Antonio, che devo fare un paio di cosette, tienilo in funzione. Dunque il segnale è fortissimo, la radio è buona, alla grande, non ci sono problemi. Dai, ci aggiorniamo dopo. E adesso va qua. Faccio c'è sempre il test agganciato nel caso mi dovesse fare qualche sbatto di tensione, ma ho visto che è perfetto. Non sale, quindi il trasformatore sta andando bene. 14 volt lo stava facendo uscire di testa tutto, integrato audio e senz'altro l'oscillatore, perché lì c'è agganciato l'oscillatore, quando ho guardato lo schema, quando si è venuto tu al bar, ho visto che ce l'ha collegato, c'era l'oscillatore, eccetera, eccetera, quindi era lì in tizio stava andando, per quello lì passava tutto. Vabbè, ci sentiamo dopo, tanto già sono qua, sto aspettando che entri Massimiliano dopo le 5, così vediamo un po' di usarlo e fargli fare un po' di passaggi. Gappa dopo. Eia, d'accordo, a dopo. Ciu. Ma così va? Ne cado qualcosa. Ora ora detersivo per i piatti. Detersivo per i piatti a lavare. E si conferma, ci ha pagato. Qua vai messa già, sa che cosa ce ne ho solo. Solo buono. Io zero, manco ci muovo l'ago, proprio zero sotto zero. No, io non c'ho solamente tre. Dico, vabbè, ma già... Già va bene, già va bene. E già va bene, già va bene. Ottimo per la truppa, voglia, va bene. Io ci sono già tre ore in cameretta, ci saranno, penso, 20, 24, 25 gradi. Proprio una leggera. Ce l'ho di fronte alla finestra. Meno male, nuvoloso, non c'è il sole. Sì, non è nuvoloso, ma a casa c'è, già nuvoloso. Già c'è caldo fuori, non so se sono 28 gradi. Ieri notte ho respirato aria fresca riccosa di incendio casa a casa. Tutta, per due ore e mezza a YouTube. Tutto quel fumo fino a arrivare a cosa, a Pozzuoli se c'era, immaginati tu il casino che ci sarà stato. Già c'era un grosso incendio a Florinas, qua la zona lì. Ecco, non già lo Florinas, una cosa del genere sarà stato, senz'altro. Da lei non ne ho visto, però era qua, ce l'ho tappato, capito? Però già si vedeva due po' di fumo ieri notte verso le 6:30, 7. Già avevo tutto dentro la camera da letto, sembrava che mi avesse acceso il caminetto. No, lì c'erano due di Canada, sono passati due o tre volte a andare a rifornire qua davanti a casa. È un bel po' di danno ha fatto ieri, un bel po' di danno, poi c'era vento. Eh beh, logico, l'altro si sviluppa per forza. Quando c'è un incendio grosso così, le fiamme con l'ossigeno salgono, poi si forma quel vento famoso. E quindi tutto quello che trova se lo mangia. Io, beh, sempre la mano dell'uomo, certo, ma non è che c'è sempre la mano dell'uomo, capito? Evidentemente qualcuno si è pulito la campagna così, capito, per non stare a passarci il trattore, una cosa del genere, l'ha preso e ha posto un buco e se n'è andato. Ma era male, gli altri avevano già tagliato l'erba e sono stati fortunati. Ma infatti, è proprio così, vabbè, ogni anno siamo alle solite, c'è niente da fare. Finché non pigliano la ragazza mia, vedrai che fra poco attaccheranno di nuovo alla cementeria, tanto ogni anno glielo fanno. Mettono fuoco della cementeria e meno male c'è l'esercito lì e quindi l'allarme parte subito. E se no, io con tutta la roba che c'è in me, in quelle grotte. L'esercito, no, ma l'esercito. E di fronte alla cementeria fanno l'esercitazione, hai capito? E quindi c'è di tutto, armi, eccetera, eccetera. Ogni volta che parte l'incendio si spaventa, la parte va per Calancoi, già lo sai anche tu. È tutto pieno di gas in Kiwi, già l'ora che prende fuoco tutta quell'erba, oia. Vabbè, già è stato bonificato. È tutto bonificato ormai. Stai parlando di tanti anni fa. Vabbè, vabbè. Purtroppo è così. Ogni anno, da una parte o dall'altra, sempre incendi ci devono essere. Ma è la mano ancora non ho messo fuoco il viale Pallottores. Un anno non ho messo fuoco il viale Pallottores, immaginati. È partito dalla bretellina, questo fumo, verso le 8, giusto? Secondo me questo fumo arriva fino alla campagna nostra, arrivo in campagna, è morto, allora siamo morto lo squadra. Sento questo bruciato, è arrivato fino alla casa, meno male il cane si era, il pastore tedesco si era nascosto, il blocchetti esterni e le, i blocchetti erano a casa e quindi non ha neanche toccato. Stava dando musso. È così. State triste per quello, perché ogni anno migliaia e migliaia di ettari di terreno vanno in fumo, sempre per la mano dell'uomo, perché il fuoco non parte da solo. No, il fuoco da solo è quello che hanno fatto. Ita, Beta, vicini di terreno e poi una volta c'erano anche i famosi, quelli assunti per un mese dalla forestale, capito? Per essere chiamati mettevano fuoco anche loro, più di uno avevano ficcato. Ma, purtroppo in Sardegna siamo così. Scontare, prendo subito, sta chiamando mia moglie. Via, io sono qua. Cattadino Coccomane, Cattadino Coccomane, buono due tre stella, buono due tre stella. Attenzione, sbuto sul 10. Attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Attenzione al canale 10, c'è qualcuno sul 10, l'ascolto. Attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Hola. Attenzione 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attenzione 10. Hola. C'è qualcuno al 10? Che è avanti. Allora, ciao Gian, Massimiliano, buonasera. Ma mi senti? Sì, un attimino che spengo il telefono, Massimiliano. Kappa, va bene, sono qua. E dai, stavo guardando su coso, su WhatsApp, facevo le cose accese, stavo ascoltando. E non c'è nessuno stasera, l'ho lasciato acceso, ce l'ho acceso già un'oretta, non è entrato nessuno. Già questo non lo so, io ho acceso in questo momento perché c'avevo altre cose da fare. Ti ha pagato bene, risolto col tapparicchio. Sì, risolto già, era la tensione troppo alta. L'ha abbassata e adesso non scalda, niente, tutto a posto. Hai visto? E me l'ho immaginato io, gliel'ho detto infatti che forse era la tensione. E vabbè là, tutto bene ciò che finisce bene, deve essere stato toccato e hanno fatto cagate. Oh già, io la verità, da quando l'ho comprato è sempre stato così, non ho toccato mai nulla, capito, l'ho lasciato sempre così. Magari questo problema ce l'aveva già, però che mi spariva la ricezione non me l'ha mai fatto. Vabbè, comunque là, meglio che sia andata così. Cappagappa, infatti. No, questo qua, la ricezione spariva perché c'era qualche battimento da qualche cosa. Del palazzo magari, qualche rumore strano, si sentiva un rumore infatti. Poi non l'ha più fatto, io l'ho usato, lo sto usando stasera, è sempre caldo. Questo qua è tranquillo, dai, non c'ha nulla. Era solo, probabilmente non avendo filtri e cose, non lo senti di più. Ma infatti già. E vabbè, sono radio un po' anche datate, diciamo così, no? Lo sai cos'è? Che proprio quelle sono belle. Quelle di adesso, base, non ne fanno più, a me piacciono le stazioni base. Non ne fanno più di stazioni base, per caso a me piacciono più quelle base delle altre. Lo so, ma lo sai che neanche ne sta dando di quelle basi così già? Te ne ricordi il Riccardino? Sì, ma non c'ha quello che voglio io, eh? Vabbè, però già ne ha roba, eh? Già lo so. Ce lo so che ne ha. Peccato che non sia rimasto. Uomani. Ciao Cla. Lo so, però ha messo tutto in vendita. E c'ha una decina di Turner, più 3, più 2. Ne ha davvero là. Vabbè, bene, vai qua. Ma non vuoi comprare uno? Ma vabbè, su Facebook. Certo te lo posso comprare. No, ma di là, vale, te lo piglio. Io no, io non ho comprato. Se c'è roba che mi può interessare, perché no? Anche qualche HF, qualcosa. Ma che le antenne sta per lei? Che antenne va? C'è il telefono, il radio un po' d'attate, poi a HF non lo so, non la verità. Oh, radio d'attate. Oh, radio Regarabbi. Io ne ho regalato 16 di radio d'attate, ma radio, ma tutte basi, e tutte con i microfoni a tavolo, figurati tu, ci mi devo raccarrare a casa e mondezza. No, no, no. Non so se c'è qualcosa che mi può interessare. Poi carne ve ha parecchie. E un carne lo prenderei per il Galaxy in più. Poi non so se c'è qualche microfono HF, io ne ho volato un paio mi pare. Forse anche un 60 c'è, non lo so, vabbè, comunque. Si vede, ma l'ho messo subito? No, l'ha messo su, la mamma l'ha messo su Marketplace. Ho capito. No, no, no, Radio Vita c'è una video più. Oh, mi ha tolto anche il DAC. L'ho tutto encelofonato, l'ho messo anche al video. Non me la futti nulla se poi ci devo rimettere le valvole, c'è un barrasone in mezzo alle valve. Solo il Galaxy come baracchino, ho detto tutto a te. Ma venerdì, l'unico DAC, dato non è venuta. Giulia, se me lo pagano come dico io lo prendo, io non regalo niente perché a me non mi ha mai regalato niente nessuno, anzi, quando ho venduto io ho sempre dato una mano a tutti. Quando compare c'era a me, vuole tutto a regalo. Quella radio non la do meno di 500 euro, meno di 500 euro, non esce quella radio da lì. Se frate Gheggia rimane in Chimi, non mi sta chiedendo niente, capito? No, meno di 500 euro, quella radio non esce da lì. Ah, guarda che io non ti ho detto quanto la devi vendere, io ti ho detto vendi dila se non te ne fai nulla, farti nella cucina, non ti ho detto poi a quanto, come la decidi tu, io non ti ho detto nulla. Il prezzo suo non è che ci debbo, perché l'ho fatta a $460 in più lo pagamento, quindi non ci sto rimettendo niente, non ci sto guadagnando niente, però meno 500 euro dati non esce da lì, ma manco ruba la anticamera, sai quante telefonate ho ricevuto, anche di 50 euro, 400, 49, forse ne ho più, 500 euro, e boh. Cava, cava, avanti già. Vabbè, cioè, in effetti è una rabbia molto grande quella lì, ci vuole spazio, è bella perché è bella, però è troppo grande. Un periodo mi piaceva molto, gliela volevo fregare a casa, non me l'ha voluta dare, se no gliel'avrei anche pagata così, però diciamo che adesso non mi va più perché c'ho già tutto impegnato qua e non so più dove metterla, mi piace perché mi piace, però non so più dove metterla. Qua ci sarebbe il coso, il Galaxy ci sarebbe bene. Lo so già, però io il Galaxy ma me l'ho messo davanti, ti dico che l'ho tolto a Massimiliano, non so se stavo andato l'ultima foto, c'era anche il 757 GX2, il CAT, che è l'ultimo che hanno fatto, funzionante, l'ho tolto e ho messo il Galaxy, perché voglio usare il Galaxy anche, capito, l'abbandonando, e adesso che è a posto sempre, però adesso c'è più potenza, più insomma, per la zona che sono io, infatti erano troppo pochi, quindi anche poco fa stavo usando quello. Me l'ho messo davanti, proprio a fianco alla linea del 920 della Yeish, capito? Proprio per usarlo, il termine più 3B, quello nero, lo uso. E ho tolto un HF, figurati perché HF ce l'ho già, ci vuole un bel spazio, credimi, un bel, a me mi stava creando problemi, anche perché è pesante, e quindi per spostarlo, per togliere la polvere da sotto, ogni volta metterlo in terra, sollevarlo, staccarlo, poi c'è l'alimentazione a 110, quindi oltre l'alimentatore a 220 deve attaccare quella 110, dietro tutti i TV, mi sono rotto le palle. E ho messo la pellicola trasparente, l'ho tutto celofanato, è coperto e l'ho messo in uno scaffale dentro il caveirio, c'è una stanza grande lì e l'ho messo lì, quello è il 757, perché sennò cioè questa radio non me la ricordo, capito? Poi magari fra 3 mesi, fra 4 mesi lo prendo, lo riattacco, lo provo, lo accendo, lo lascio acceso un paio, due, tre giorni e te lo do la buca. Ma tenerlo fisso non fa, è troppo grande già. Ma stanno fermo, non è il massimo, è claro. Ogni tanto accendilo perché poi si rovina. Avanti, Massimiliano. Kappa. Vabbè, a me è una radio che non è che mi piaccia molto, no? Nel esteticamente non è questo grande radio. Adesso per farti un paragone preferisco il Galaxy a quello. C'ha più canali, però vabbè, è una cosa un po' particolare, quella lì deve piacere, ecco. Non è, a me le radio vintage non è che mi piacciono tanto, l'unico mica mi ho preso questo Galaxy perché c'ha un po' di tutto, dai, attacchi un microfono a tavolo e va bene. Ma ci vediamo, cosa non c'ha da... Intanto esteticamente è più bello, lascia perdere, che solo con gli strumenti che hai tutto, c'ha tutto, c'ha le bande larghe, non c'ha l'FM e basta, ma c'ha 260 canali con la radio. Il mio non è il Marchi 9, è il Marchi 10 DX, è l'ultimo proprio che hanno fatto, poi non ne hanno fatto più di quella serie. Tant'è vero che due c'ha il Marchi 9, il Marchi 10 c'è la Walter, Marco c'ha il Marchi 9, non c'ha il 260 e il 240 canali, c'ha il 40 canali e boh, capito? Io ne ha dei canali, caspita se ne ha. Vabbè, sono gusti, dai, diciamo così, sono gusti. Poi il radio a valvole, così, le valvole già usate, è un casino a trovarle, non mi piacciono, da queste cose così, a me piace attendere e fa vita. Queste radio così a valvole, la verità, non sono del mio gusto, da. È tutto transistorizzato. Io adesso le valvole le ho tolte, le ho avvolte alla carta stagnola e le ho conservate, capito? Sono quattro valvole piccoline, le 6-8 B6 che sono due ricettatori di trasmissione, basta, non è come i finali, no? Basta, il resto è tutto transistorizzato, non le fa niente la radio. Le valvole però se lasci attaccate con l'umidità può creare problemi al piedino e quindi è meglio toglierle. Conservarle, come si fa gli amplificatori lineari, non si lasciano le valvole se non lo usi l'amplificatore, si tolgono e si conservano, quando ti serve le riattacchi, lo tieni 12 ore acceso, capito, e poi puoi andare in trasmissione, come ho fatto io con l'FL2100 della IAESU, perché era un anno fermo, tutto qua, e vabbè, sono gusti, il DAC è una bellissima radio, è splendida, come era quella mia, nuova, però il Galaxy è un altro tipo di radio perché è più moderna, capito? Tutto qua, vai già. Sì, vabbè, il DAC sembra un grande amplificatore, io infatti quando l'ho visto una volta, la prima volta, pensavo che fosse un amplificatore di quelli grossi, come caspita di amplificatore, no, non è un amplificatore, è una radio, cazzo. Addirittura quando stavo arrivando, che stavo andando a casa sua, ha parlato con le Super Sidekick, con quella radio lì. Adesso se aveva una voce calda, sembrava una radio HF, ho detto con che radio stai parlando, e con il DAC te lo faccio vedere. Mi ha detto che era corto, ma che non ci credo, e invece era proprio quello lì, perché poi me l'ha fatto vedere. Era una voce calda, proprio bella, una bella radio. Guarda, io prima di staccarlo lo stavo usando, l'ho usato, ho fatto un paio di questioni, tutti mi hanno chiesto a vedere se stavo usando il Galaxy, perché invece ho detto no, se non c'ha bippi come faccio a usare il Galaxy? Allora lo puoi togliere, no, adesso ti faccio sentire il Galaxy, c'è la differenza, perché il DAC anche con l'MB5 funziona molto bene, col TAN-F3 c'ha questa voce molto, come hai detto tu, molto calda, però siccome io ho una voce particolare, quindi avevo le tonalità medio-alte con un po' di bassi e sembrava che stavo usando il 60, infatti mi ricordo, forse con Antonio Bombolino gli avevo mandato la foto, stavo modulando con quella e quello staccato. Non sono belle radio, lascio che non va ragione, dopo posto io non ne voglio più mettere di niente, già ho i 3HF, più il base, sono tutti base, più il base VEU, la linea della IAESU, il Galaxy va più che bene, boh. Andavo così. E allora Massimo, ho sentito la tua radio, tutto a posto? Non lo so, io sono entrato, guarda, ho fatto chiamata e mi ha risposto Gianni, la verità si dica, perché sono arrivato dal lavoro e immediatamente ho preso l'altra macchina e sono andato a fare la revisione che mi scadeva questo mese e quindi sono andato a fare la revisione. Sono rientrato, c'è la mia sorella, l'Alghero, sono facendo la chiacchierata, poi sono salito su, mi sono fatto la doccia, ho chiamato e mi ha risposto Gianni, quindi guarda, ci sono 10 minuti in radio. Io ero fuori che stavo innaffiando, tornato attraverso, ma la radio non accese, no, ci ho parlato io con Antonello, a posto, tensione regolata, la radio. aveva stamattina accesa, non scalda, nessun difetto, non era quello lì il problema, ma la stavi già usando tu così, Massimiliano, capito? Quando ha iniziato a farti difetto del frequentimento andava ai tilti perché c'era troppa alimentazione, e fortunatamente te ne sei accorto di questa cosa, era tutto là lì il problema, e poi ti andava in protezione perché era troppo sopra alimentata, invece con quella tensione adesso che c'ha 13,5, 13,8 va benissimo, c'era tutto il giorno accesa, non scalda, non fa nessun difetto, perfetto, anche questa è così, era 13,5 a 13,8, quando poi abbiamo fatto quel lavoro l'ha messo a 13 per far sì che non scaldasse troppo non arrivasse troppo alimentazione lineare, mi capite? Però l'alimentazione è quella 13,5 e 13,8, la 13,8 a 14,5 è un bel, è chiaro che scalda il frequentimento, adesso non scalda più, tranquillo che è a posto, penso domani te la restituisca, vai già. Mezzugai, cosa ritirata là, Carlo, la radio? Non lo so, siamo messaggiati quando ieri, mi pare, l'altro giorno, ma detto che doveva, però non ci va a posta, capito? Penso che la ritiri quando va a Bonorva, mi sembra ci andava questa settimana, quando va a Bonorva passa se la ritiri. Adesso gli faccio una proposta, se me la vende 200 euro, me la riprendo. Cazzo, c'ha le picche paurosi, cazzo. L'ho visto il video, un bel lavoro ha fatto Albino. Ma Albino io lo sapevo. Gianni per la Magnatini la Lecce, cazzo. La Magnatini la Lecce, però siccome io lo conosco a Gianni il più rumano, quando perde la pazienza, lui perde le tasse. Cazzo, se tu ragionavi, contavi sino a 10, con la radio era a posto. Perché gli ha preso una cazzata. Adesso te ne vuoi prendere un'altra, giustamente perché ti piace, spendi 200 euro, 100 li hai presi dalla radio tua e ce ne metti 100, quando invece ti tenevi la tua con 50 euro l'avessi messo a posto. Ehi vabbè, fatta ecla, io non piango sulla te versata, l'ho mai fatto, cioè ce n'è in radio. Ma se ne trovo poi una buona come voglio io, perché quella era nuova, non c'aveva un graffio, niente, tutto perfetto. Ci perdere i graffi, già che i graffi ne puoi te se te lo rifai, io quando l'ho comprata questa qualche graffio ce l'aveva, anche perché a Drobese il frontalino è, come che stia uscendo dalla fabbrica, nuovo, con tutte le sue scritte, pomelli neri, belli, nuovo. Però nel fece ti devo dire che c'era qualche graffietto, nella Giovogrado sono andato a Roberto, l'ho portato a zero completamente, l'ho portato dentro il carrozzino di Roberto al forno, fatto al forno, appeso, spruzzato, lasciato al forno, capito, me l'ho ritirato il giorno dopo, figura di documenti scido, è fiammante, mica l'ho già vista, so se è fiammante è funzionante al 100%, quindi non c'entra niente i graffi già, se c'è un graffio, a me interessa che una radio abbia un graffio o due graffi o tre graffi, che si può fare, però che non sia mano messa dentro, capito? Perché una volta che mano messa dentro poi è un casino, questa dentro non è mai stata toccata, c'è un'alimentazione originale, tutto originale, tutti l'ha fatta, me l'ha detto, perfetta, in buonissime condizioni, però non la do perché ogni tanto due passaggi me li voglio fare anche col baracchino, capito? Però stare sempre con gli HF. Ehi Acla, purtroppo io, Acla, tu lo sai benissimo, io l'ho acquistata così e così non l'ho mai toccata all'interno, quindi sicuramente magari c'era già questo difettuccio, ma era giusto da abbassare l'alimentazione, non è che c'ha la radio, non è che c'ha difetti o è stata manomessa, capito? Tutto qua, perché la radio mi sa che funziona, cioè perlomeno funziona bene, benissimo. No, ma quello non è un difetto, Massimiliano, sono le resistenze variabili, si chiama resistenza variabile per quello, perché con l'andare del tempo può anche variare, non è che può salire o scendere la tensione, a me me l'ha fatto solo un alimentatore stabilizzato, all'alimentatore, un alimentatore di quelli con il trasformatore. Inizialmente dava sempre 13,8, era regolato così, poi un giorno ho visto la luce proprio del 430 quando era carbonati che era a massa, gli ho detto ma adesso ti rende ogni blu, vediamo, ho preso il tessere, ho messo il tessere nei puntali rosso e nero, che stava dando 12,5, era troppo poco per un HF, capito? E quindi l'ho portata, lo vedo sai, e me l'ha cambiato quel trimestre Torino con la licenza variabile perché era da sentirsi, si è cotta, con l'andare del tempo sono stronzate quello. Magari fucendo tutti i visci e bromole, però Antonello mi ha confermato che la radio è perfetta, nuovissima, non è mai stata toccata, eccezionale con la radio. Era solo da regolare con la tensione lì, capito? Tutto qua. Gappa, vai già. Sì, ma ieri ha detto che c'aveva della ruggine, non so, c'erano dei componenti che avevano della ruggine che li voleva cambiare, boh. E uno dice che era mezzo scoppiato, boh. Ma, infatti Massimiliano Ferretto non tocca l'ha fatto vedere. Ma scoppiato è lui, cos'è la ruggine, un commerciatore può anche... Quando scoppia non funziona, se c'era qualche puntino vuol dire che era così, l'usura del condensatore stesso, appena di umidità che può aver preso nell'arco degli anni, di dove funzionava eccetera, capito? Però lì non devi toccare niente, se la radio funziona vuol dire che il condensatore non è scoppiato, li prendi la tredina col pennellino, pulisci tutto bene, poi soffi, basta, boh, non devi già bannuta, vai Massi. No, ruggine non ce n'è, questo te lo posso garantire, perché io la radio l'ho scoperchiata e ruggine non venne, ho già, come si dice. No, l'ha detto Alessio che in un componente c'era un po' di ruggine, così ha detto quello che ti sto dicendo. No, io questa cosa non l'ho sentita, e vabbè, comunque, non lo so. Ripeto già, sono un radio che hanno 30 anni, quindi... E a gruppo di Ambari. Guarda, io ho avuto un radio che è tenuto fermo anche 10 anni, riaccese e funzionavano benissimo. Magari se lo fa con queste di adesso, dopo un paio d'anni non funzionano più. Infatti è proprio così, guarda, io adesso sto andando al Congrassi, proprio comodo, ce l'ho davanti, senti che bella radio c'ha, anche troppo forte mi hanno letto. Troppo forte, già va bene. Se non ti è troppo forte, a me piace uscire la radio, ma giusta cicche cicche. Sto usando lontano più 3, prima ci avevano 2, adesso ho messo a 3. E va bene così, perché mi sono ascoltato, a me piace questa modulazione, vai già. E vabbè, là. Quando te ne stufi me lo dici. No, lascia perdere, cercate un altro e ti auguro di trovarlo buono, bello, come piace a te. Io non sono geloso di nessuno, questa rimane qua perché è veramente eccezionale la radio, ma da Danilo questa, prima di pagargli addirittura, ma hai tutti la prova, la fai, se non ti piace, se trovi un difetto me la restituisci. Non ho trovato nessun difetto e me la sono tenuta, e che l'ho usata poco, anche quando era carbonati la usavo poco, però adesso che ce l'ho davanti, commutatore a 4, comodo, e lo dice la sua posizione, i suoi vati, e lo usiamo, vero Massimiliano? Eia, verissimo, va bene, dai, mi ha mandato un messaggio, Muzzere che è giù, adesso scendo e così la saluto, là. Allora, questo è quel tornado 4500, quello con il colt, là, diciamo, con le calecca, come va? Sono di radio, eh? Una bomba, sono di radio, una bomba, poi si attendi il microfono dal tavolo, bella modulazione, corposa, bella forte, vai già. È forte, ma se faccio un confronto il gara si esce due volte più forte, molto più forte esce. Ma quale, tra me e Massimiliano? No, quello tuo, con quel microfono esce una bomba, No, non capisce, questo Galaxy con il microfono che sto usando io adesso è più forte di quella di Massimiliano, la modulazione. Cappa. Vabbè, questo lo spinge un panel più 3B e la radio di Alujai, oramai questa è diventata turbo. Però Massimiliano per avere il microfono normale sta spingendo bene. Sì, va benissimo. Ma io sto facendo il confronto di radio che è più potente quella del Galaxy, capito? Rimane più potente. Io mentre parlo con uno mi sto massaggiando la gamba che grazie sono caduto e mi sto passando la pomata. Guarda, non ne posso più con questi dolori. Stasera sono andato a portare la macchina a fare il tagliando e ho aspettato lì perché non ce la facevo a tornarmene a casa a piedi. E niente, ho sofferto un po' sì quando ha finito di farmi il tagliando. E vabbè, adesso è fatto, questo è il terzo, l'ho fatto già. ragazzi, dai, fate riprendere a me che vi saluto, al limite ci sentiamo dopo se coincide, dai, che scendo giù e saluto a Mosele che ancora non l'ho vista, no. Ci sentiamo dopo, ciao. E via, ciao, si vede, dai, buone cose, siamo qua, avanti qua. Ciao Massimiliano, alle prossimine ci sentiamo, già siamo qua. Non si torna a Talino oggi in tuo giorno, attento con qua. Stava studiando. Sta studiando, ma abbiamo fatto i compiti a casa. Si sta mettendo sotto l'attalino di brutto. Non deve le mordere. Da prima dobbiamo, ma vabbè, ha avuto un sacco di problemi, poverino. Adesso già sta andando di lusso, già sta andando di lusso, io c'ho tutto sotto controllo, lui lo sa. Io col suo professore mi sento e quindi sembra che si stia impegnando, ma non solo lui, tutto il gruppo si sta impegnando, evidentemente vogliono veramente arrivare a questo passo. Vabbè, avremo gente meno qua. Già, per il primo periodo sarà tutto l'entusiasmo di andare in HF, di fare prove, di trasmettere in VNU, però poi, insomma, come facciamo un po' tutti, in particolare il tocco qua ce lo metto sempre, anche se la sera magari o durante la giornata faccio anche due passaggi in VNU, in HF, a destra e a sinistra, però mi faccio sempre sentire, spero che anche loro facciano così, insomma, pazienza. Ma sul canale monitor non state più trasmettendo, non ho più sentito nessuno. Sì, c'è Marco un po' impegnato fuori, Gianfranco non so cosa stia facendo, Roberto è partito in pole position, Roberto se tu lo vuoi sempre in HF, sempre in 15, in 20, in 40 metri, in 80 metri, sempre prende questo o un altro e tutte cose, è molto molto avanti, veramente sono contento. C'ha già un bel po' di diplomi, c'ha già tanti country molto importanti, insomma si stanno a fare, sono contento. Gli altri siamo un po' così, vediamo se c'è qualcuno, nessuno. Io poi l'ho chiamato, non mi ha risposto nessuno. Evidentemente Walter è impegnatissimo col lavoro, perché il periodo estivo aumenta tantissimo al lavoro, quindi insomma, però già ci siamo, già. Continente, fanno quello che fanno le radioamatori qua, vanno in alta montagna, piazzano le antenne, modulano, fanno il questionario, i contest, cioè ho visto su Facebook che fanno dei contest anche. Sì, ne abbiamo fatto, no? Io ho 5-6 diplomi di nuraghi, ne abbiamo fatto con Andrea, con Michele, c'è tanta altra gente, già ne abbiamo fatto lì, però già quando le persone sono sempre le stesse, a lavorare sono sempre le stesse, a camellare sono sempre le stesse, fate una domanda e date una risposta, già mai capito, ma alla fine, ma a me a me guardi, faccio, devo essere sempre io e gli altri, non fate nulla, va a far culo, non faccio più niente, succede sempre così. Ciu. Sì, Alessio, avanti Ali. Beh, tutto cambiato, tutto normale, a posto, quando ho fatto la modifica, tutto tranquillo, sì. A me mi sta arrivando benissimo, te l'ho già detto, non c'era Massimiliano. A me sta andando benissimo, alla grande, 5-9 più 20, e radio 5 è perfetta. È acceso, ci ho sceso qualche minuto giù, in garage sto facendo una roba e ho sempre acceso il baracchino. Comunque lo chassis è tiepido, a posto, giusto. Quindi abbiamo risolto il problema, meno male, almeno quello, se no va a pigliare il fuoco, se a un certo punto. No, ci mettevi le uova per facere il fritte. sicuro, purtroppo quando lo sai, quando è stato modificato l'apparato, già il discorso è questo, non sai i valori, capito? Del trasformatore, quello in pratica li ha aumentati per avere 13 volte in pratica quando schiacci portate, il discorso è quello, in assorbimento. Meno male Massimiliano ha telefonato giù a quell'amico suo, mi ha dato i valometri giusti e lui è a posto. Adesso è tranquillo, non si muove di un millimetro, frequenzimetro è stabile, E quindi non salta più niente. Meno male, sta lavorando bene adesso. E mi, da stamattina all'1:30 e mezzo che è acceso, figurati l'apparato. Quindi figurati tu. E qui ci sono quasi, sono penso 25-28 gradi, una cosa del genere. Non ha fatto un accidente, quindi sta lavorando bene tutto. Adesso, verso le 11 ritocco la sondina e le ho messo per il test, almeno chiudo tutto e a posto. Allora, va, segna a dire, così se te ne capita un altro, i valori, se non te li ricordi, se li hai segnati. Beh, quello sì, io non c'ho come si chiama, il valore di tensione, capito? Il discorso è quello. Quindi mi sono trovato spaesato, la verità. Anzi, ho convinto che dovrebbe essere 12, la verità, ma comunque sia, 14,4 è un BM, quasi 15 volts, non è un 3009. Quindi 3009 lavora anche con 15 volts, questo purtroppo lavora di meno, hai capito? Comunque il frequenzimetro è a posto, non si muove, non ha dato nessun difetto, non si è spento, eccetera eccetera, è acceso dalle 2 di oggi fino adesso, quindi adesso sono pronto a staccare la sonda del tester, che vuol dire quando noi sono giusti, almeno è più tranquillo Massimiliano. Domani quando lo accende lo usa, non ha nessun problema. Va bene, va bene, tutto a posto. No, stanno bene, Antonio, alla grande, nessun problema. Se sentite vento, le cose stanno asciugando i tappeti, va bene. Però io vi lascio perché sono già le 8 e devo preparare delle cosette, dai. Quindi vi saluto e la radio rimane accesa, se mai ci sentiamo dopo. Ciao Gianni, ciao Antonello e ciao anche a Massi. Massimiliano sei in ascolto. Ok, a dopo, vai Antonio. Ok, la tensione è sempre uguale, 13,10 volts, quindi non ha variato niente. Quindi è tranquilla adesso. Adesso dopo stacco le due sondine che ho saldato, gliela stacco con il saldatore veloce. Richiudo l'apparecchio, poi voglio attirarglielo. Ero dentro una busta, poi devo ritirare perché devo scendere un attimino a controntiano per fare un impianto, un'antenna. E così almeno è tranquillo Massimiliano. Comunque fatto sta che sto scendendo bene, grazie a Dio. Meglio sapere certe cose, basta chiedere, non costa niente da un tecnico all'altro, hai capito? Siccome quando ti in pratica ti togo, non sai il voltaggio dal rivelatore suo originale, è un casino, esce di testa. E quindi meno male me l'ha detto Albino, cioè me l'ha detto Massimiliano per via Albino, almeno sono tranquillo e ho regolato tutto e a posto, non si muove per niente, non c'è più quel problema di prima, non esiste più. Adesso sappiamo un difetto in più. Bene, bene, tutto bene, ciò che finisce bene. Dai, io vi saluto, ciao Claudio, ciao Alessio, vado a portare giù scale. Dai, ci sentiamo, statemi bene. Ia, ciao, ci sentiamo già, alla prossima, dai, buona festa. Ciao, ciao.